prima avevo avuto anche tutto, la faccenda era avuto tutto. Se va bene, la faccio così, allora ti la butto la pietra. Vabbè, ti sei tutto. Che paese è questo, Antonio? Positivo, no? So che avevo comprato omologato ZX Pro della Polman, quello con frequenzimetro blu. Capito? Faccia presto. Avanti, la nuova, buonasera, per il tratto. Buonasera a tutti, Io sto usando Midran 48. Ah, 48, penso che mi ascoltate bene con la tendina in gomma, A voi ancora, buonasera a tutti. Stai domando, rimango in quelle X, riprendete pure, dai. Ciao Antonello, non so che c'è sotto. Riprendete pure, dai. Sì, l'ho buttato la parte della rete, Bacchi. No, perché lui è robusto, alto, e due metri, capito? È normale, va avanti, per quello che si discorso. Avanti, Bacchi. Sì, allora stavo dicendo la parola, la buttando dalla rete, la parte dell'antenna. Ma sì, non è accorto, tanto non lo raccoglie nessuno, non lo devo sempre. Sì, guarda, no. Bacchi, non ne fai nulla, non ne fai niente in queste radio qua. Se non lo muoio, lo cresceranno. Vabbè dai, rimango in quelle X, qui prima te la mari. Facciamo un discorso storico su una cosa, se stai chiamando l'unica volta nella risposta, tu lo stai facendo, anche tu c'è la macchina di avvista, guarda il momento. Aspetta un secondo che vedo regolarla. Sempre a casa e tanto non puoi uscire, è un andiamo a fa, se devi uscire e tanto c'è troppo caldo, poi devi uscire con la mascherina, non puoi avvicinare nessuno, per paura di qualche contagio, non si sa mai, chi lo sa, può anche succedere, ma per dire, sicché tanto vale me ne rimango a casa, intanto fare quattro passi e non poter mai avvicinare nemmeno un amico per prendere un caffè insieme, tanto vale me ne rimango a casa e gli amici gli telefono e basta, o così faccio, ma chi? E tu? Sì, ma è l'unica soluzione, intanto è inutile andare in giro, ripeto, devi portare la mascherina, col caldo che c'è ancora diventa ancora più caldo quando hai la mascherina, non puoi entrare in un bar, non puoi stringere la mano a un amico se lo incontri, perché tanto male, te ne sei in casa, passerà questa storia del coronavirus, speriamo bene, intanto pure oggi ve ne sono 5 contagiati in Sardegna, 3 nella provincia di Sassari e altri 2, poi mi sembra uno è a Nuoro, se ricordo bene, e l'altro non me lo ricordo, sicché vedi che i contagi ci sono sempre, anzi stanno sempre aumentando, ieri erano 17, sicché ti puoi immaginare, arrasta, dai, poni bagna, avanti Tore. Ecco, la processione, sta facendo la processione, a tale Tore. In televisione la stanno dando Tore. A Bigiolina, televisione a Bigiolina. Ah, è ok, adesso la accendo, intanto il televisore ce l'ho qua di fuori, qua davanti, anche se magari abbasso il volume, così no, così continuo a parlare con voi. Va bene, dai, avanti Marchisio. Prego. È registrato, è così, stiamo dando la TV, ma io ho un telefono avanti, è prego. Avanti il greco! Avanti la cittadina, ti saluta la cara Sassari, Salvatore da Sassari, avanti! Attento Udine, ti abbiamo chiamato, l'amico Salvatore da Sassari ti ha chiamato, avanti Udine, ti ha ascoltato, K. Sì, perfetto, Salvatore da Sassari, con il 7351, stazione Sierra Eco, operatore Luigi, dalla provincia di chilometri sud da Udine, Palmanova, provincia di Udine. Avanti per te, Salvatore. Compagnia di Giulio, Battiglio e... Ok, riprendi. Da Udine. Non ti sente, aspetta che lo chiamo io. Attento Luigi, ascolti Giulio da Sassari, in compagnia qui, questo locale, con Salvatore e con Bacchisio, Marino in QRX, se io ti rilancio il microfono, vediamo un po', ma mi sa che non hai ascoltato Salvatore, confermi? Ok, Luigi, sì, io riesco ad ascoltarti, ma evidentemente non è una preparazione molto buona nei confronti dell'amico qua di Sassari, Salvatore, che io ti rimando avanti, vediamo un po' se poi riesci ad ascoltarlo, avanti Salvatore, Luigi, inutile, la preparazione non è molto buona, però fai un tentativo, vai Salvatore. Sì, ok, buonasera Luigi. Ok, sono in compagnia di Giulio e Battiste. Non so se mi ascolti. Sì, perfetto, Salvatore, ti ho copiato un po' mattino, segnale 3-4 e radio 3 comunque di QRM. Sì, dai, ti ho copiato, corto meglio un po' l'altro collina, però comunque ti ascolto, Con 7351, ti ripeto, Sierra Eco, operatore Luigi, CH Palmanova, 10 KM sud da Udine. Mi darete un controllino, avanti Giulio per te. Ok, Luigi, sì. Il Santiago non è molto alto, Santiago 7, con un bel po' di QSB comunque, infatti a momenti si scende anche a 2-3. Però la radio quando c'è il buon segnale, perché lo posso considerare buono, visto che è considerato la distanza, è 5. La radio è forte, molto forte. Io ti sento molto bene, veramente. Ti mando avanti Bacchisio e dopodiché Marino. Avanti Bacchisio. Sì, vediamo un po' se mi ascolta Luigi. Buonasera Luigi. Avanti ancora per la Gruppo Bravo di Sassari, Luigi. Attento Luigi, hai ascoltato Bacchisio da Sassari? Vediamo un po', Giulio. Aspetta un attimo, Manuele, un attimino. Sì, no, ha detto che non è riuscito a tirarlo fuori a Bacchisio. Facciamo un altro tentativo, eventualmente. Avanti Bacchisio, riprova. Può essere che la preparazione sia più buona in questo preciso istante. Avanti Bacchisio, per Luigi in Udine, vicino a Udine, 10 km da Udine. Vai Bacchisio. Vediamo un po' se Luigi mi ascolta. Avanti Luigi, si ascolti la gol. Bravo da Sassari, buonasera, avanti. Ho segnale 2 convertibile da Sisio, dai, sorti a tirarti fuori. Faccio girare tutto per te, va? Ok, mi prendo ancora io e ti mando avanti un altro amico allora, ti mando avanti un altro amico sempre qui dalla locale di Sassari. Avanti Emanuele, se ascolti Luigi da Udine. Yeah, ok, ti ringrazio Claudio, vediamo un po' se mi ascolta Luigi da Udine. Io sto usando un piccolo palacchino, 40 canali. È un antennino, si può dire, ficcato nel giardino, in terra. Vedi tu, Luigi, se mi ascolti, a te. Ok, riprendo ancora una volta io, vediamo un po' se è rientrato Marino. Marino, sì, scusa un attimo Luigi, Marino. Avanti, vai per Luigi in Udine. Ti mando avanti Marino, sempre dal locale qua di Sassari, o Luigi. Avanti Marino. Benissimo, ciao Luigi, buonasera, Marino da Sassari. In Santiago, Santiago 6, si è la 5, perfetta. Avanti Luigi, si è copiato Marino, cambio. Sì, Marino, perfetto. 5, come studio e una radio 4 che controlla in questo passaggio se l'è ascoltato Luigi avanti. Benissimo, grazie Luigi. Si arriva abbastanza ok, Santiago di 7 e la radio 5 perfetta. Bene, si arriva anche il micro amico Giulio, sempre da Sassari. Avanti Giulio. Ok, riprendo ancora una volta io e mando avanti l'amico Salvatore per un ulteriore tentativo. Vediamo un po' se riesce a farsi ascoltare meglio, perché poc'anzi sì, l'ha sentito, però era un pochino bassino. Salvatore, avanti per Luigi, vediamo un po' se questo momento si è migliorata la preparazione. Vai Salvatore. Wow. Luigi 7351 da Sassari, ok, ci risentiamo alle prossime. Io ne approfitto e chiudo, ci sentiamo tutti quanti. Ciao Matteo, ciao Bacchisio, ciao Giulio, ciao Emanuele, ciao Marino, ci risentiamo, ciao Bacchisio. Ok, riprendo di nuovo io, ciao allora Salvatore, grazie per la chiacchierativa, ci sentiamo prossimamente, magari al più presto. Ok, dai, mando avanti Bacchisio ancora per Luigi in Udine. Bacchisio? Bacchisio si deve essere allontanato, non lo so. Vai Marino. Ma che sta parlando Bacchisio, o giù? Sì, riprendo io Luigi, benissimo, avanti Luigi, dammi le tue condizioni. Purtroppo in questo momento. Allora, ok, riprendo di nuovo io, grazie per l'antenna, Luigi, però in questo momento la preparazione si sta abbassando notevolmente, quasi quasi faccio fatica ad ascoltarti, evidentemente se sta scendendo la preparazione, vediamo un po' se lo script continua ad essere lungo abbastanza per sentirci, facciamo ancora un paio di passaggi, se no diversamente, se per caso non ci sentiamo più, ritieniti salutato da tutti gli amici qua di Sassari, che poi adesso in questo momento ti mando avanti di nuovo Manuele per l'ulteriore conferma, avanti Manuele per Luigi, vai. Sì, Luigi, io a Luigi lo sento bene, una radio di 4, non forte forte, però ce lo tiro fuori, Santiago di 3-4, oscillante, e lo ascolto abbastanza bene, dai, a te ancora Luigi. Dal Fausto in zona Udine, Luigi, 73 cordiali a tutti quanti, più o meno ascoltati, più o meno, tutti quanti, ritenetevi salutati e buon weekend e buon Ferragosto, a voi di nuovo. Perché mi prende Marino da Stassa, il Fausto ben sentito, lì. E ti saluto perché sta sempre una specie di qualcosa di reale. Ti vado avanti con l'amico Giulio perché anch'io devo chiudere per l'uso che passa. Bene, ti devi prendere che per me è pure vecchio. Ok, ciao Marino, grazie anche a te per la chiacchierata dei prossimi, dai. Ciao Fausto, intanto, ben entrato su questo canale, Giulio da Sassari ti super saluta, Santiago buono e anche radio abbastanza discreta, buona, diciamo 5, Chiara, perlomeno ti ho ascoltato molto bene nel passaggio che hai fatto, io ti rilancio ancora, poi ti mando avanti qualche altro amico qua, sempre dalla città di Sassari, avanti ancora Fausto. Sì Giulio, benissimo, sperando che la propagazione si mantenga, ecco, si mantenga, ultimamente sta andando su e giù come i fagioli nella pentola qua, no? Ci vuole stabilizzare, va bene? Condizione di lavoro o divertimento alla 555, qui 603 3 baule e Mantova 1, microfono palmare normale o originale, ecco Giulio. Va bene, io rimbalzo alla Luigi, ditevi saluto, vi auguro di una buona serata, buon proseguimento di QSO. Se non dovessimo ascoltarci più ci sentiamo, va bene? A te Luigi, grazie di avermi fatto entrare, buonasera a tutti. Ok, e io vi saluto entrambi perché vi ho sentito tutti e due insieme. Ciao Luigi, grazie a te per la chiacchierata e per il contatto. Grazie anche a te, Stefano mi sembra. No, Fausto, scusami, Fausto. Sì, vi siete accavallati, per cui siete arrivati entrambi comunque nella mia stazione, anche se con un po' di disturbo chiaramente, ma questo era ovvio. Ti mando avanti Fausto. Manuele qui la stessa di sempre, avanti Manuele, comunque io vi saluto, ciao Fausto, ciao e ciao non mi ricordo, scusami, non mi ricordo, Luigi, grazie per il contatto a tutti e due, io mi ritiro, avanti Manuele, vai. Ok, dai, ciao Giulio, buona carica, buon tutto anche a te. A Fausto lo sento benissimo, più forte di Luigi, lo sento chiaro chiaro a Fausto, non so se a me mi ascolta meglio Fausto, a te Fausto, sempre la Sassari, Te l'appoggio, Okay. tutto, cosa c'è? Dimmi tutto, sono qua, non ti preoccupare. Cosa si pretende? Siamo qui. Ok, vabbè, scusi, il suo è la verità. Quindi vivo da te tu. Ce l'ho ancora. Oh, so, ci sì. Perché male mi ascolti, Manuè? Aspetta che sta parlando sotto Fausto, Antonio. Dimmi Fausto. No, stavo parlando proprio, poi scusate a voi. Di probabilmente di spostarsi sul nostro canale monitor che è il 30. E adesso ti ho ascoltato benissimo, perché la propagazione va e viene. Adesso ti ho tirato fuori, si è arrivato benissimo adesso, Va bene, grazie, statevi bene, 73 più cordiali, vi auguro buon proseguo. Se non avete già cenato, speriamo di riascoltarci a quanto prima, va bene? Buon Ferragosto, buon fine settimana. Ok, grazie altrettanto Fausto, compro cambio a calcento, dai, buon Ferragosto anche a te, buon tutto. Vai, pum pum. Yeah, saluto l'amico, tanto me lo mi ascolta. Questo panico esce, mi sembra un watt e mezzo, se non mi ricordo male. Già di suo, figurati, questo è il microfono normale suo originale, di questa palatina qua. Che radio stai usando? Il coso, il Polma ZX40 però, quello che ho comprato un mese fa, nuovo. E come te mai scendere sul passo? Perché è fatto così questo paracchino, cosa ne posso fare? C'è anche la tanto uguale, la stessa cosa esce, è tanto di suo, non ne posso fare niente. No, ma strana, la modulazione è strana la modulazione, pare che si tratta di un portatile. Già c'è la capsula proprio dei portatili, la verità, da 150 ohm la capsula sua originale. Ascolta a me, ma Torino passato c'è? No, non c'è passato, ma mi ha telefonato per che ha avuto un problema con un microfono, mi ha detto. Per quel portatile famoso. Infatti mi sembra voleva passare per fartelo vedere, poi non so se è passato o che cosa. No, no, non c'è passato. Aspetta che attacco l'857D, così mi senti meglio, che è tutta una fagosa di quando impatto. Aspetta un attimo. Via. Come mi senti? Ma un passaggio più lungo. Ma cambia. E cazzo, da 7 a 9 mesi. Questo c'ha, sai che non c'ha 5 watt, no, ne ha un bel po'. Molto, ne ha molto di più. Adesso sono, ho toccato il pulsantino di dietro. La modulazione dovrebbe essere molto più con toni alti. Così invece con toni bassi. Così con toni alti. Non ce l'ho con i toni alti che è più chiara. Eia. Sto usando quella adesso. A voglia che c'è bene questo. Questo non è un demonio. Tu stai scendendo con quello che mi hai detto tu o con qualcun altro? No, io sto usando la Galaxy, ancora. Ah, ok, va bene. A voglia, a voglia. Ce n'è uno da sistemare di Galaxy. Galaxy 2 c'ho qua a casa. Da sistemare. C'è anche venduto pure, addirittura. Aspetta, che mi sono a posto. Ah? Aspetta un attimo, sono a posto. Già sono qua io. Chukachu, chukachu, chukachu, chukachu.